intervento sarà molto più breve. Si ferma su Cesare Lombroso, riguarda in gran parte l'uso di alcuni strumenti statistici che Lombroso fa nel periodo del 1860 e poi dopo il 1870. Cioè Giacanelli ha richiamato con molta opportuna insistenza la data dell'unificazione come momento dell'organizzazione degli psichiatri. Io vorrei sottolineare un'altra data, che è la svolta degli anni 70, non tanto dal punto di vista dell'organizzazione degli psichiatri, ma dal punto di vista dell'instaurarsi, per quanto riguarda in particolare Lombroso, di un rapporto organico con alcuni settori della penalistica italiana, rapporto organico che è un rapporto di incontro-scontro su punti nodali, cioè di cui quello centrale è, come noto, la insistenza di Lombroso che al centro della penalistica doveva essere non il reato ma il reo, e che era uno spostamento d'ottica rilevante per i penalisti stessi. Ricordo soltanto brevemente che dal 1860 all'inizio degli anni 60 Lombroso partecipa, dal punto di vista della sua qualifica professionale, come molti altri studiosi dal punto di vista della loro qualifica professionale, al tema del conoscere l'Italia, tema che significa statistiche, analisi, ma soprattutto, l'ha ricordato già Giacanelli, criteri uniformi di classificazione dei materiali. Cioè Lombroso, in un articolo del 1865 sulla Gazzetta Medica Lombardia, dichiara la difficoltà di trattare come medico legale le malattie italiane, non perché manchino le statistiche, ci dice Lombroso, non perché le cifre difettino, ci sono le grandi e ampie ricerche dei medici preunitari, ma lì è che spesso le espressioni ammesse a quelle cifre mancano di significato uniforme, passando da una all'altra di quelle province che pochi anni sono erano anche in scienza separate come nazioni. E voler comporre in un fascio quelle cifre sarebbe un ingannare gli altri e se stessi. Quindi il primo problema sono statistiche uniformi. È un problema che Lombroso ha come medico, che Isidoro Del Lungo nel 62 richiama nella sua qualità di storico. È da rifare la storia d'Italia, forse non toccherà la presente generazione, ma dobbiamo raccogliere in buone storie delle province che divisero l'Italia la materia di questa vasta e difficile sintesi, dove municipi italiani dovranno vedersi avvicinati e riuniti tra loro e scoperto quello che fu il vincolo occulto che li congiungeva. Ma praticamente negli stessi anni Enrico Pessina, penalista, richiamava i penalisti di fronte all'aggrandirsi della nazione innanzi a se stessa a fare le ricerche sulla comparazione dei sistemi legislativi preesistenti su cui quello sardo si era sovrapposto, sistemi legislativi che quantomeno con la sopravvivenza del codice toscano del 53 e con le modifiche che subisce il codice sardo nell'essere applicato nelle province napoletane mantengono la necessità di commenti, analisi e così via. Cioè negli anni 60 mi pare che la chiave fosse quella che richiamava Pasquale Villari nel 1849: la storia d'Italia è la storia di una sola nazione composta di una moltitudine di stati particolari. Dunque, quale fu la vita degli stati particolari, quale la vita di tutta la nazione? Il problema volge su questi due cardini, bisogna, esaminando i primi, trovare la seconda. Cioè si trattava di indagare dai vari punti di vista, particolarità igienico-sanitarie o storiche o giuridiche, le parti che venivano a comporre questo tutto che era l'Italia, in cui l'unità per ora riusciva a dar poco più che una griglia uniforme, la possibilità di trovare un formulario omogeneo in cui collocare le parti precedenti. Quando Lombroso propone di costruire una geografia medica dell'Italia, una carta igienica delle varie province italiane, non a caso si richiama i medici militari, cioè è la categoria dei medici che più fortemente hanno subito l'omogeneizzazione dell'unificazione. Lombroso dice esplicitamente: disseminati per ogni più remoto angolo della penisola, animati da uguali sistemi o almeno da analoghi metodi di studio, sono in grado di fare un primo formulario omogeneo in cui c'è già in Lombroso qualche richiamo evidente alle differenze anche etniche tra le varie parti che hanno composto l'Italia, ma sono in qualche modo differenze non rilevanti. Si accompagnano a quelle meteorologiche, telluriche o alimentari, a qualificare le diverse malattie che ci sono nelle varie zone d'Italia. E un ampliarsi certamente delle competenze della medicina legale, che si pone anche come strumento statistico, strumento di controllo, con un'ulteriore specificazione. L'uso della statistica medica negli anni 60 si collocava anche un momento in cui l'Italia, ora come entità è autonoma, con l'unificazione si ricolloca in Europa. È molto evidente l'attitudine comparativa, cioè l'uso delle statistiche internazionali è sentita, c'è un testo di Lombroso sulle malattie degli artefici del 1869, in cui lui dice: mi servirò delle statistiche francesi, tedesche, eccetera, perché in Italia l'industria non c'è, ma non c'è dubbio che come la letteratura, come la politica, anche l'industria prende l'abbrivo dal gran movimento impressole dal 59. Cioè l'Italia in ritardo si troverà ad affrontare quel complesso di problemi che altre nazioni hanno già affrontato e quindi potrà, sempre per usare le parole di Lombroso, attraverso l'analisi dei medici stranieri, godere solo i vantaggi senza subire i malefici del progresso. Un elemento in cui lo strumento della conoscenza è spesso interpretato come strumento di dominio, come strumento di controllo, come capacità di tenere sotto, appunto di allontanare i malefici e di tenere solo gli elementi positivi. Alla svolta degli anni 70 ci sono delle modifiche rilevanti, almeno mi sembra, per quanto riguarda Lombroso. Molti anni dopo, al sesto congresso di antropologia criminale, Lombroso rievoca in modo molto immaginoso un nuvoloso giorno di dicembre del 1870, in cui, esaminando il teschio del brigante Villella, vi riscontrò anomalie ataviche simili a quelle degli invertebrati inferiori, e in cui si era convinto, come avviene quando una grande pianura è rischiarata da un orizzonte illuminato, che il problema della natura dei criminali fosse risolto. E nel 1870 il cranio di Villella diventa uno dei luoghi topici di Lombroso negli anni successivi. Di lì a poco, nel 72-74, Lombroso dedica due corsi liberi universitari all'analisi dell'uomo delinquente, in un periodo che è interessante per l'organizzazione anche degli studi penalistici, oltre che degli studi psichiatrici. Nel 71 comincia ad apparire la rivista di discipline carcerarie, diretta da Martino Beltrami Scalia, ispettore delle carceri del Regno. Nel 72 c'è il primo congresso giuridico italiano a Roma, che ha al centro di una delle sue sessioni il tema centrale della scala penale, del rapporto tra reato e pena. Nel 73 abbiamo sentito gli psichiatri si organizzano come classe autonoma, di sottoclasse autonoma di frenetria al congresso degli scienziati. Nel 74 appare la rivista penale di Lucchini. Nel 76 viene pubblicata la prima edizione dell'uomo delinquente, che da questo momento in poi è certamente al centro del dibattito anche per i penalisti. In uno dei suoi saggi, dei suoi tanti saggi dedicati alla penalistica italiana, Mario Sbriccoli ha indicato nel diritto penale una scienza sociale a suo modo nodale nel passaggio degli anni 60, anni 70. Per quanto riguarda Lombroso, questo è vero, secondo me, in duplice senso. Da un lato la penalistica italiana è certamente alla svolta degli anni 70 impreparata all'incontro con le scienze statistiche, antropologiche, criminalistiche. Molti dei dibattiti riguardano ancora la teoria della pena, molti ancora sono concentrati in attesa della sospensione ottenuta da Pasquale Stanislao Mancini sul dibattito sulla pena di morte che ha ragione sbriccoli e poco ricco da un punto di vista teorico, se invece lo è molto da un punto di vista etico-morale. È a metà degli anni 70 che proprio con la rivista penale di Lucchini c'è una nuova attenzione piena di riserve nei confronti di queste nuove discipline. E quindi scienza sociale nel senso che nella metà degli anni 70 la penalistica si arricchisce di analisi, di riflessioni che riguardano e cominciano a riguardare per esempio le carceri, per esempio i rei, oltre che il reato. La scienza sociale nel senso che mi sembra che proprio dall'interscambio con discipline giuridiche penalistiche Lombroso acquisisce un tessuto connettivo capace di collocare le sue ricerche in un quadro d'insieme. Non importa che da questo punto di vista il contrasto fosse evidente, cioè il porre al centro il reo e non il reato era un elemento di diversificazione molto forte, ma mi sembra che anche in termini antagonistici era la penalistica offrire il contesto, i punti di riferimento, il quadro interpretativo all'interno del quale la medicina legale e la criminologia cercava di compiere con Lombroso un salto di qualità assai importante. E la connessione tra scienze penalistiche e criminologia diveniva un passaggio essenziale per Lombroso. Basterebbe guardare le citazioni dell'uomo delinquente in apertura. È evidentissimo lo scambio con la rivista penale. È evidentissimo che gli strumenti bibliografici di cui Lombroso si serve sono in gran parte recensioni della rivista penale, delle opere di diritto penale del tempo. È evidentissimo che la rivista penale, con alle spalle come maestro, forse un po' lontano ma ancora efficace, Francesco Carrara, rappresenta un modo importante anche da un punto di vista concettuale per Lombroso. In un passaggio essenziale per Lombroso, il diritto di punire, che evidentemente nel momento in cui si mette in discussione il libero arbitrio, si mette in discussione il fatto che il reo agisca se non sotto l'impulso di dati atavici e fisiologici, diventa un nodo decisivo, Lombroso si richiama esplicitamente proprio a Francesco Carrara, dicendo che preferisce la teoria di Francesco Carrara, che considera la pena come atto legittimo del potere sociale per cui si effettua tanta restrizione di libertà quanta ne esige la reintegrazione dell'ordine giuridico. Tuttavia Lombroso dice che, essendo lui del tutto digiuno delle sublimi astrazioni giuridiche, ritiene di dover interpretare questa affermazione di Carrara nel senso che la pena è un male giusto che si infligge per la sicurezza dell'ordine a chi commette un male ingiusto, cioè che la teoria di Carrara va interpretata come teoria della difesa sociale. Il penalista e il criminologo hanno non il compito, e questo lo richiama anche Carrara, né di emendare né di punire in realtà, ma di isolare il colpevole rispetto alla società. E mi pare del tutto evidente un voluto fraintendimento di Lombroso, al di là delle parole, del concetto di Carrara. Voluto significativo. Rileggerò, perché l'ho già letta agli amici, ma mi piace molto, la frase di Carrara da cui Lombroso prende la mossa. Il fine della pena non è quello né che giustizia sia fatta, né che l'offeso sia vendicato, né che sia risarcito il danno da lui patito, né che si atterriscano i cittadini, né che il delinquente espii il suo reato, né che ottenga la sua emenda. Tutte queste cose possono essere conseguenze accessorie della pena ed essere alcune di loro desiderabili, ma la pena starebbe come atto incriticabile anche quando tutti questi risultati mancassero. Fine primario della pena è il ristabilimento dell'ordine esterno nella società. Il discorso di Carrara si centra con molta evidenza nella reintegrazione non della società ma dell'ordine giuridico. La società è esterna all'ordine giuridico stesso, il centro è il diritto rispetto a una società che utilizza il diritto per reintegrare il diritto stesso, un potere sociale. L'Ombroso sposta totalmente con la teoria della difesa sociale l'ottica. L'ottica diventa, attraverso le parole di L'Ombroso, la società stessa e il diritto è uno degli strumenti di controllo che ci si dà nei confronti della società. Cioè, è un passaggio importante perché, anche se molti di loro lo negheranno nei dibattiti, proprio da questo passaggio di L'Ombroso in parte deriva, accantonato il tema della riformabilità del Rileo, alcuni dei passaggi che poi verranno presi dai giuristi di impianto socialista e di cui sono debitori, mi sembra, in parte nei confronti di L'Ombroso. Una concezione non neutrale del diritto, il suo caratterizzarsi come strumento di controllo sociale nelle mani delle classi dominanti. Cioè, ciò che viene messo in discussione con molta evidenza da L'Ombroso è la ragione stessa di un diritto liberale, quale Carrara aveva cercato di impiantare. Tuttavia, proprio da Carrara, proprio dalla rivista penale, L'Ombroso trae i suggerimenti necessari, le informazioni non sempre controllate, molto spesso approssimative, del dibattito su e tra i penalisti. È una verifica che si può fare immediatamente. C'è un punto su cui l'antagonismo è comunque categorico. Alla luce del pensiero di L'Ombroso, il tema della scala penale non ha ragione d'essere. Rimane la scala del reo, cioè è al delinquente, alla sua pericolosità potenziale, che va commisurata la pena e non al delitto che il delinquente compie. Ma a sua volta mi pare che L'Ombroso offra ai penalisti italiani qualcosa di non secondario. Il mettere il reo al centro dell'attenzione contribuisce a dare una nuova centralità al mondo carcerario, a cui in realtà mi sembra di poter dire, per le mie conoscenze, per quello che ho letto soprattutto di sbriccoli sull'argomento, i penalisti avevano offerto finora un'attenzione più teorica che concreta, cioè più il carcere come luogo di pena che il concreto carcere in cui il carcerato viveva la sua pena. I contatti di L'Ombroso con direttori di carceri, di riformatori, ovviamente di manicomi criminali, alla ricerca dei dati che confermassero la sua teoria, inseriva attraverso L'Ombroso, i contatti con la rivista penale sono molto stretti di L'Ombroso, molte delle sue perizie mediche appaiono sulla rivista penale, molti interventi di L'Ombroso sono presenti, di entrare in quel mondo carcerario che appunto Martino Beltrani Scalia, con la rivista di discipline carcerarie, pone anche lui al centro dell'attenzione degli studiosi. È vero che il dibattito aperto dalla rivista di discipline carcerarie, il suo proporre all'attenzione le conseguenze delle pene inflitte e i modi di strutture di carcere, il dibattito sul carcere cellulare, ad isolamento o collettivo, sul lavoro e così via, non sembra avere riflessi significativi sull'organizzazione delle carceri italiane e quando là nel 1891 con il nuovo regolamento non sono particolarmente attraenti i riflessi che ha su questo regolamento. Ma è vero che con le discipline carcerarie si rafforza l'idea di porre al centro il colpevole. C'è un piccolo dato, l'uomo reo, e più che il reato, c'è un piccolo dato che può essere di qualche interesse. Come saprete, l'uomo delinquente di L'Ombroso prosegue il rapporto all'antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie. E questo è il titolo completo. La rivista di discipline carcerarie ha nella sua intestazione, in relazione con l'antropologia, col diritto penale, con la statistica. Cioè, in qualche modo è una connessione di mondi in cui l'elemento statistico è decisivo. La rivista di discipline carcerarie offre continue statistiche elaborate in paesi stranieri in occasione dei congressi penitenziari, ce ne sono di frequenti e di grande rilievo in quel periodo, che si accompagnano alle statistiche del bollettino ufficiale della Direzione Generale delle Carceri, che è in appendice alla rivista di discipline carcerarie stesse. E si badi bene, sono statistiche nazionali e internazionali, provenienti da paesi di diverso grado di sviluppo, di diverso regime, di diversa organizzazione politica, di diversa situazione sociale. E' certamente da questo che Lombroso trae una conclusione, che non è solo di Lombroso, ma è di molti in quel periodo: il delitto, insomma, appare così dalla statistica come dall'esame antropologico un fenomeno naturale, un fenomeno necessario, come la nascita, la morte, i concepimenti. Una riflessione questa di Lombroso nella seconda edizione dell'Uomo Delinquente del 78, che si colloca anche in un momento in cui la statistica continua a vivere la sua stagione fortunata in Italia, ma con uno spostamento d'accento molto evidente. Ad essa non si accompagna più la convinzione che la conoscenza è strumento di controllo e di dominio. Gli anni 70 sono significativi anche da questo punto di vista. Il completamento dell'unità nazionale lascia compiti sospesi e problemi non aperti. Cioè, in questo senso, il paragone tra Lombroso e l'Italia non è assurdo, no? Molte volte, discutendo con Giacanelli e con Delia Frigessi, ci sembrava che Lombroso avesse scritto un unico libro, in realtà, a cui aggiunge continuamente capitoli. Non lascia mai i pezzi precedenti. Poi pezzi di questo libro, che è L'uomo delinquente o L'uomo di genio, li usa per farne articoli. Poi li rimette dentro, dalla prima edizione del 76, che è un volumetto di 220 pagine, all'edizione in tre volumi del 96-98, L'uomo delinquente va avanti per accrescimento di problemi, con uno spostamento che, come dire, non lascia cadere i vecchi problemi, aggiunge a quelli nuove emergenze. Cioè, in questo senso Lombroso cambia come la società italiana, per aggiunta e per durare di questioni. Le raccolte, le sillogie, le statistiche si moltiplicano, ma non ne deriva quella lettura organica che era stata promessa, non deriva quel formulario omogeneo che avrebbe consentito di capire, collocare, decidere. A mano che diveniva oltretutto meno pressante la ragione di tenere in piedi un'unità fortemente conseguita, e si spegneva l'eco di una lettura tesa alla ricerca di ciò che univa, di tipo ed impianto risorgimentale, l'individuazione di quel vincolo occulto di cui aveva parlato lo storico dell'Uno mostrava la sua fragilità, e la mostrava in un modo essenziale, quello del meridione d'italiano. Nel 1875, sulla rivista penale viene anticipata la sezione dell'Uomo delinquente dedicata alle associazioni a malfare. In particolare, all'interno di questa categoria si collocano mafia e camorra. Due vocaboli nuovi, ancora, o non ancora costituiti nel vocabolario italiano. Non è, credo, privo significato che proprio a proposito del Mezzogiorno, che già nel 63 con le leggi di pubblica sicurezza aveva messo a dura prova l'impianto liberale della penalistica italiana, viene ad effettuarsi un primo spostamento molto significativo di accento di Lombroso dal delinquente nato ai suoi caratteri atavici all'esame di realtà collettive, le associazioni a malfare, con implicazioni di tipo etnico sempre più marcate, e che avrebbero complicato il discorso di Lombroso nel momento in cui la statistica medica si intreccia a quella criminalistica e carceraria. E anche da questo punto di vista mi sembra, e concludo veramente con questo, che si sottolinei quel carattere di interscambio, con di scontro incontro con le scienze penali. C'è una fonte statistica che Lombroso prende certamente dalla rivista penale, sono, ma di cui fa un uso molto particolare, sono le relazioni dei procuratori del re. La rivista penale, sin dall'inizio, mi pare sin dal secondo anno, nel 75, presenta una sintesi di queste relazioni dei procuratori del re, una fonte statistica, devo dire oggi scarsamente usata, ma molto ricca, e la rivista penale è molto chiaro che cosa si propone con questa sintesi. Mettere in luce la necessità di pervenire al nuovo codice penale, sottolineando incongruenze e difformità della legislazione penale corrente, segnalare gli aspetti più rilevanti della cultura dei giudici, e in particolare dei giudici con compiti direttivi, riaprire in termini non astratti la questione della scala penale, passando dal dibattito teorico alla concreta applicazione della legge. Nel 1879 Lombroso pubblica un libretto, L'incremento del delitto in Italia, in cui costruisce un'immagine d'Italia in cui persistenza e cambiamenti si intrecciano in termini tali da andare ben oltre il carattere fisiologico del delitto. L'Italia presenta un incremento di delitti del tutto sproporzionato rispetto agli altri paesi. Non siamo nella normalità come la nascita e la morte. E usa proprio le relazioni dei procuratori del re per individuare l'intrecciarsi tra delitti atavici e delitti evolutivi, riconoscere differenze etniche irriducibili, porre al centro della sua riflessione il dato della Italia non unificata e per certi aspetti non unificabile agli occhi di Lombroso. Cioè Lombroso afferma che l'Italia non è adunque unificata neanche nel male. In Italia sarebbero necessari tanti codici penali quanti sono le sue regioni e le sue etnie. Le vecchie associazioni al malfare si assommano con le recenti associazioni criminali, prodotto dei conglomerati urbani e dell'incipiente industrializzazione. L'Italia dell'ibridismo sociale, in cui poca e troppa civiltà formano una mistura pericolosa. E anche qui, vorrei dire, solo per accenno finale, si arriva alla conclusione che non è molto dissimile a quella che proponeva Giacanelli. Cioè, in qualche modo, non è nella società che avviene e può avvenire l'unificazione, ma l'unificazione avviene nella statualità. L'unificazione, in qualche modo, avviene nelle leggi. Quando i criminologi italiani partecipano così attivamente al dibattito sul codice Zanardelli, non è solo perché c'è la questione del medico legale e del suo ruolo ma perché in qualche modo il codice definisce una norma da cui dipende in parte il concetto stesso di normale. È solo un accenno che andrebbe sviluppato, ma che non c'è tempo di fare. Grazie.